Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Cade il bipolarismo inglese, Cameron vince, ma non abbastanza per formare il governo. Dall'Italia aiuti alla Grecia, questa sera al vertice a Bruxelles. Moody's chiarisce, da noi nessun rischio, le borse provano a risalire mentre la Consob indaga. Rimproverata dalla maestra, la prende a calci la donna, è in prognosi riservata. Buongiorno dalla redazione, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Elezioni in qualche modo storiche in Gran Bretagna, lo spoglio alle ultime battute, ma un dato appare già chiaro: se il vincitore conservatore Cameron, per la prima volta dopo oltre 30 anni, non potrà formare da solo un governo forte. Allora andiamo a Londra da Giorgia Scaturro. Bene, sì, i risultati per il momento sono fermi a 291 seggi per i conservatori, 251 per i laburisti e 52 per i liberal democratici. Dunque, come dicevi, il vero dato è che la Gran Bretagna ha un Parlamento impiccato, perché il leader dei conservatori, David Cameron, risulta sì in testa a questa corsa elettorale all'ultimo respiro, ma non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei 326 seggi alla Camera dei Comuni. Cameron ha già dichiarato che Brown, comunque, non ha più il mandato per governare il paese. Sentiamolo. Ciò che è chiaro da questi risultati è che il paese vuole cambiare e noi siamo pronti a contribuire ad una nuova leadership, ha detto Cameron. Di fatto, il primo ministro laburista Brown ha comunque il diritto di formare un nuovo governo con il terzo partito che è emerso, i liberal democratici. Brown non ha ammesso sconfitta, ma ha dichiarato che il suo dovere, che emerge da queste elezioni, è quello di favorire un governo forte e stabile per la ripresa economica. Apertura dunque a quella che nel sistema politico britannico bipolare è un'anomalia, ovvero la coalizione di governo, che sta già innervosendo i mercati, nonché i britannici. E per ora è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Giorgia Scaturro, uno scenario, dicevamo, a cui i britannici non sono abituati. Allora, un commento l'abbiamo chiesto al corrispondente a Roma del quotidiano inglese Financial Times, Guy Dinmore, eccolo al microfono di Alessandra Schepisi. I conservatori diventano il primo partito, ma sembrano aver fallito l'obiettivo di conquistare la maggioranza assoluta. Si può dire dunque una vittoria a metà per i conservatori, una sconfitta per i laburisti? Secondo me è quasi una sconfitta per tutti. È un momento di incertezza per la Gran Bretagna adesso. Forse per il partito Liberal Democrats è una sconfitta più grande, ma loro possono giocare un ruolo forse nella coalizione con Labour, ma fino adesso non sappiamo. Quindi quali scenari potrebbero aprirsi ora? Il primo scenario è che il governo Labour con Gordon Brown può tentare a fare una coalizione con Clegg e i Liberal Democrats, ma le due partite insieme anche non hanno una maggioranza chiara. Allora non è una certezza che questi due partiti possono fare un governo, ma è anche possibile che i Liberal Democrats non sono volentieri a fare una coalizione con i conservatives. Allora è una situazione il più, come si dice, inquietante di tutte le elezioni che Inghilterra ha avuto per 10 anni. E dunque situazione non ancora chiara in Gran Bretagna e soprattutto scenari futuri ancora da chiarire, torneremo a parlarne nel corso della giornata. Veniamo ora invece però in Italia, dove questa mattina sono stati varati dal governo gli aiuti per la Grecia, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, per la verità però si è parlato anche d'altro. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Disco verde dunque di Palazzo Chigi al decreto legge per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Di fatto gli aiuti italiani da destinare alla Grecia, si tratta di 14,8 miliardi di euro in 3 anni, la prima parte che andrà ad Atene sarà invece di 5,6 miliardi, le risorse saranno reperite attraverso emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine. L'obiettivo del governo italiano, spiega il Presidente del Consiglio Berlusconi in una nota, è quello di raggiungere una soluzione comune condivisa in grado di mettere l'Europa nelle condizioni migliori per fronteggiare la crisi. Il Premier, tra l'altro, questa mattina ha avuto una serie di contatti a livello comunitario, uno scambio di idee, viene definito dal governo, con il Presidente francese Sarkozy, con il Primo Ministro spagnolo Zapatero, con il Presidente della Commissione europea Barroso. Sul fronte dei delicati equilibri interni all'esecutivo non ci sono sostanziali novità. Berlusconi conserva l'interim dello sviluppo economico, resta però in pole position il Vice Ministro alle comunicazioni dello stesso Dicastero Paolo Romani. Per quanto riguarda le pressioni della Lega per il Ministero dell'Agricoltura, è lo stesso titolare Galan a ribadire: vado avanti, sono un ministro con molte ambizioni di fare bene. Da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Sentivamo scambi con gli altri leader europei per Berlusconi. Questa sera i leader dell'Unione Europea discuteranno a Bruxelles insieme del caso Grecia, mentre oggi anche la Camera Bassa tedesca ha approvato il suo piano di aiuti ad Atene di 22,4 miliardi di euro in 3 anni. E intanto oggi Moody's ha chiarito invece la posizione italiana. Simone Spezia, è così? Sì, buongiorno Anna e buongiorno agli ascoltatori. Questo è un appuntamento tradizionale organizzato da Moody's, ma che naturalmente cade in un momento particolare, dopo il rapporto presentato da ieri da Moody's sulle banche, che indica gli istituti di credito italiani non immuni dalla crisi, seppur piuttosto solidi, e le relative critiche che sono arrivate anche dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ebbene, cosa dice oggi Moody's in questo rapporto presentato sull'Italia? Che l'outlook del nostro paese è stabile, non ci sono prospettive negative, che lo sforzo richiesto al nostro paese per tenere sotto controllo il debito pubblico sembra relativamente moderato rispetto ad altri paesi europei, dove le correzioni necessarie sono decisamente più brutali. Questa è l'espressione usata da Moody's. Pesa meno in prospettiva tutto questo sulla ripresa economica e sulla coesione sociale. Ci sono anche dei punti critici, naturalmente la vulnerabilità di fronte a un potenziale aumento dei tassi di interesse, perché c'è la spesa per interessi sul debito e comunque allungamento della vita media del debito che allenta l'impatto sulla spesa. Questo il quadro offerto oggi da Moody's, decisamente un messaggio molto più tranquillizzante rispetto a quello di ieri per i mercati. A voi. Grazie, grazie Simone Spezia. Ad aggiungere che la Consob ha fatto sapere di aver avviato da ieri tutti gli accertamenti del caso per verificare eventuali anomalie o irregolarità nelle contrattazioni sui mercati nelle sedute degli ultimi giorni. A metà giornata Piazza Affari sta tentando un timido recupero insieme alla Sola Madrid in un contesto di borse europee ancora deboli. L'indice FTSE MIB segna una crescita dell'1,15%. Tutti i titoli bancari rimbalzano dopo il crollo di ieri. E da Milano parla oggi anche l'amministratore delegato di Intesa San Paolo. C'è attesa, lo ricordiamo, per la decisione sul nuovo consiglio di gestione. È ancora in corso l'incontro per il comitato nomine, mentre nel pomeriggio ci sarà il consiglio di sorveglianza. La volontà resta quella di chiudere la partita, arrivando a decidere entro questa sera. Il nome più gettonato sembra restare quello dell'economista Andrea Beltratti, ma anche qui intanto tiene banco il caso Grecia. Rassicurazioni arrivano da Corrado Passera, amministratore delegato di Intesa San Paolo. L'Italia, ha detto, è in una situazione migliore rispetto agli altri paesi e non c'è nessun allarme immediato per le banche italiane, che hanno tutti gli strumenti per gestire la crisi. A margine della presentazione del quinto censimento nazionale promosso dal Fondo per l'Ambiente Italiano e da Intesa San Paolo, Passera esclude che in Italia possa verificarsi un nuovo caso Grecia. L'Italia è in una situazione assolutamente diversa e quindi non ne parliamo proprio, ha detto. Il top manager ha sottolineato che la Grecia è un paese che ha dimostrato di non gestire responsabilmente i propri conti senza tenere conto delle conseguenze a medio e lungo termine. La Grecia deve fare la sua parte, ha detto, per rimettersi a posto, può farlo. L'Europa deve fare la sua parte, perché sicuramente è un bene comune europeo la stabilità e la forza dell'euro. Infine, ha detto, secondo me l'Europa ha i mezzi per gestire questa situazione. Riguardo all'effetto domino, dipenderà molto da come l'Europa gestirà nel suo insieme la crisi. E a proposito di un coinvolgimento di Intesa San Paolo nel salvataggio della Grecia in modo diretto, ha risposto: è troppo presto per parlarne. Anna Marino, GR24, Sole 24 Ore. Questione rimbalzata anche alla consegna dei tradizionali premi al cinema e Davide di Donatello, dove ha parlato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Le difficoltà non sono finite, diciamocelo francamente, perché sono parte delle difficoltà complessive dell'economia e della finanza pubblica, e in questo momento, questo spiega anche perché il Ministro e il Sottosegretario Letta non sono qui, sono in Consiglio dei Ministri discutendo della crisi greca, perché in questo momento siamo alle prese con un brutto colpo di coda della crisi finanziaria globale, il che impone naturalmente molte ristrettezze, richiede ancora più intelligenza nel selezionare le destinazioni a cui debbono essere rivolte le risorse finanziarie pubbliche. Cambiamo argomento, perché sentivamo sul tavolo dei consigli dei ministri c'era oggi anche la successione a Scajola, dimessosi per il coinvolgimento delle inchieste sui grandi appalti. Scajola, lo ricordiamo, comunque non è indagato. Oggi ha annunciato invece che parlerà Guido Bertolaso, ma facciamo il punto. Poteva contare su amicizie influenti anche in Vaticano la cricca di Angelo Balducci e Diego Anemone, personaggi di primo piano come il cerimoniale pontificio Monsignor Francesco Camaldo, ma anche enti religiosi come Propaganda Fide sono entrati nelle carte dell'inchiesta di Perugia sugli appalti per i grandi eventi. Questo anche grazie alle rivelazioni di Laid Ben Idri Fatih, l'autista tuttofare di Anemone, che ai magistrati perugini avrebbe fatto anche il nome di Pietro Lunardi, l'ex ministro che però continua a ripetere di non aver mai preso tangenti né firmato progetti per conto di Anemone. Nel frattempo gli inquirenti stanno continuando a passare al setaccio i movimenti bancari riconducibili all'architetto Angelo Zampolini, le cui dichiarazioni hanno portato alle dimissioni del ministro Scajola. Per oggi pomeriggio, intanto, il capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, ha deciso di convocare una conferenza stampa a Palazzo Chigi per parlare degli sviluppi dell'inchiesta che lo riguardano. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le inchieste in corso sono opera di alcuni magistrati politicizzati. L'opinione del presidente del Consiglio Berlusconi ha dato spunto al nostro sondaggio di oggi. Vi chiedevamo questa mattina se siete d'accordo con questa lettura. Il 56% di voi ha risposto sì. Critico invece il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, che auspica al più presto che si vada a votare. Io mi auguro per il bene del Paese che alle elezioni si possa andare al più presto possibile, perché credo che proprio questa è l'unica soluzione per evitare che accada una nuova Tangentopoli, perché si sta allargando a macchia d'olio questa situazione anomala di una miriade di amministratori, uomini di governo, parlamentari, che hanno gravissimi problemi di giustizia, per cui in Parlamento non si sa più se i provvedimenti che vengono presi nell'interesse della collettività o per la salvaguardia della propria impunità. Le 13:16 minuti, le notizie di oggi di GR24, a partire dalle elezioni in Gran Bretagna che aprono scenari inediti. Cameron vince ma non abbastanza per formare il governo e cade così il bipolarismo inglese. Dall'Italia il via libera agli aiuti alla Grecia, questa sera a Bruxelles il vertice europeo. Moody's chiarisce, l'Italia non è tra i paesi più a rischio, le borse provano a risalire mentre la Consob indaga. Rimproverato dalla maestra, la prende a calci, è accaduto a Napoli, la donna è in prognosi riservata. E ripartiamo proprio da qui, sentite cosa è successo. Un calcio violentissimo che gli ha spappolato la milza, poi ha asportatale con un intervento chirurgico. A colpire l'insegnante Maria Marcello, ancora in prognosi riservata, è stato un suo alunno di quinta elementare. Ieri mattina presso il circolo didattico Madre Claudia Russo a Barra, Salvatore, il ragazzino di 10 anni, protagonista dell'aggressione, si è scagliato contro un compagno di classe, reo a suo dire di averlo offeso, lanciandogli un portapenne. L'insegnante è intervenuta e a quel punto il ragazzo le ha tirato un calcio. La donna, crollata al suolo, è stata poi trasportata d'urgenza in ospedale. Un fatto grave, lo definisce la preside Rosa Seccia. L'insegnante ha piena solidarietà, dice, ma dobbiamo pensare anche a quel ragazzo, capire cosa lo ha spinto ad un gesto simile. Sulla stessa linea il marito della vittima, che si dice pronto al perdono e chiede che qualcuno aiuti quel bimbo. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Bandiere nere e tricolori in Piazza della Repubblica a Roma per la manifestazione organizzata dai movimenti di destra. Si temevano disordini. Cosa è successo, Chiara Grandis? Chiara Grandis? Sì, buongiorno a voi. Stanno lasciando Piazza della Repubblica in questo momento i ragazzi delle associazioni neofasciste, così si definiscono loro stessi. Questa mattina hanno manifestato a Roma, come dicevate, un sit-in autorizzato dopo molte polemiche. Sono arrivati dal Trentino, dalla Toscana, ma anche dalla Puglia, con le bandiere nere, col fulmine bianco del blocco studentesco e di Casa Pound, ma anche bandiere tricolori e molti fumogeni. Sono soprattutto studenti universitari, studenti delle scuole superiori, e questa mattina su un piccolo palco si sono alternati gli interventi dei loro rappresentanti, che hanno presentato i programmi per le elezioni dei consigli nazionali. No alla privatizzazione degli Atenei, no al caro libri, affitti più bassi. Questa mattina è passato di qui anche qualche consigliere comunale del Popolo della Libertà. Per intervistare i ragazzi, che erano molto più numerosi delle ragazze, bisognava chiedere il permesso ai coordinatori, ragazzi che si definiscono una grande famiglia e si definiscono anche di ispirazione fascista. Quel periodo storico va rivisitato, dicono. È arrivato anche qualche insulto ai partigiani e anche all'altra piazza, Piazza Santi Apostoli, di cui vicino, dove manifestavano in contemporanea le associazioni della sinistra e gli antifascisti. Per ora comunque nessuno scontro fra i due gruppi, come temevano invece le forze dell'ordine, che stanno ancora monitorando la zona. E da Roma è tutto, linea a voi. Grazie Maria Chiara Grandis. L'alta velocità e la pioggia sarebbero all'origine dell'incidente stradale che ieri sera in provincia di Cremona è costato la vita a 5 giovani romeni. È una delle tante tragiche storie che ogni giorno sentiamo ed è, secondo Pina Cassaniti, presidente dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, proprio il nodo da sciogliere quando si parla di sicurezza stradale, cioè di responsabilità di chi guida e rigore estremo del legislatore. Cristina Carpinelli ha chiesto alla Cassaniti allora un giudizio sul nuovo codice della strada. Noi eravamo contrari all'aumento dei limiti di velocità, poi ho saputo che li avrebbero aumentati, adesso è venuto fuori che non li hanno aumentati, cioè possono essere aumentati nell'autostrada a tre corsie, ma sotto la responsabilità dell'ente dell'autostrada. Quindi qualche cosina è passata, una maggiore attenzione, non so, al fatto zero alcol per i neopatentati. Quindi diciamo che esprimete soddisfazione per l'accantonamento del limite dei 150 km autostradali, ma state mettendo in luce quelle ombre di questa riforma che in qualche modo voi avete già definito una non riforma. Ma secondo me il problema di fondo per gestire la strage stradale, risolverla, è veramente porre attenzione alla razionalizzazione della mobilità. Quindi il problema è un po', sta più alla radice. Queste sono delle misure, perché si possono incrementare le sanzioni, tutto quello che vogliamo, ma poi è necessario queste cose attuarle, cioè mettere i controlli sulle strade, permettere i controlli. Ma anche questo, se alla base non c'è la razionalizzazione del traffico, come si fa a gestire il problema? Poi per esempio noi avevamo chiesto, ma questo continuerò sempre a chiederlo, di fare delle sanzioni, di applicare o prevedere, insomma stabilire sanzioni adeguate alla gravità dei comportamenti e finalizzate a far modificare il comportamento, perché si dice che il 90% degli incidenti sono dovuti al comportamento del conducente. Se è questo la causa, cioè il comportamento del conducente, bisogna agire in funzione della modifica del comportamento. Secondo noi la sanzione adeguata a far modificare il comportamento del conducente è la decurtazione definitiva dei punti della patente, perché chi ha la patente è come se avesse l'abilitazione, ha una licenza in mano e con la quale può anche uccidere. Se non gestisce con responsabilità il proprio comportamento alla guida, la macchina diventa un'arma per uccidere, non per uccidere una persona, ma per fare una strage, perché lei vede se ne ammazzano 3, 4, 2. Quindi una molta attenzione va posta sia al conseguimento della patente che alla decurtazione dei punti. Il conseguimento della patente, che deve essere veramente la formazione alla guida responsabile, quindi non tutti debbono poter avere la patente. Noi abbiamo questa falsa idea che si nasce col diritto alla patente, non è vero, perché la patente, siccome si guida la macchina è anche un mezzo per uccidere, la patente deve essere data soltanto a quelle persone che dimostrano un equilibrio personale, che capacità di autocontrollo, altrimenti non deve essere data. L'intervista di Cristina Carpinelli a Pina Cassaniti, presidente dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Siamo allo sport, alla finale di Champions League contro l'Inter mancano 15 giorni, ma il Bayern alza la voce. Hennes, ex stelle ed attuale presidente del Consiglio di Sorveglianza del Bayern Monaco, ha attaccato oggi frontalmente l'UEFA, accusandola di subire troppo l'influenza italiana dopo la conferma della squalifica a carico di Ribéry, espulso dall'arbitro Roberto Rosetti durante la semifinale andata contro il Lione. Hennes ha anche aggiunto che ci sono troppi italiani nei ruoli chiave della UEFA. E intanto parte domani da Amsterdam il 93esimo Giro d'Italia, un giro che dopo tre giorni nei Paesi Bassi arriverà martedì prossimo in Piemonte per concludersi a Verona con una cronometro il 30 maggio. Amsterdam è già in rosa intanto. Piero Augusto Stagi, buongiorno, ci siamo allora? Sì, ci siamo, diciamo le condizioni climatiche non sono delle migliori, 7 gradi, piove e cielo cupo, però la città è rosa, come hai detto tu, qui è la capitale della bicicletta, tutti vanno in bicicletta, chilometri e chilometri di piste ciclabili, una grande passione, grande attesa, devo dire, come se fosse un po' la loro corsa. D'altra parte il comune di Amsterdam ha voluto fortemente la grande partenza del Giro d'Italia, versando nelle casse di RCS Sport più di 1,5 milioni di euro. Domani ci sarà la prima tappa, un cronometro diciamo quasi tutta culturale, visto che partirà dal famosissimo museo di Van Gogh e arriverà davanti al Rijksmuseum, che è il museo più ricco della città. Sarà 8 km 400 metri, il grande favorito è un inglese, qua si parla in inglese non solo perché siamo a Amsterdam, ma perché sta aumentando il ciclismo anglofono. Ci sarà per la prima volta al suo esordio il Team Sky, la formazione voluta dal figlio di Murdoch, e soprattutto ci sono formazioni americane che si stanno facendo sempre più strada anche nel mondo del ciclismo. Grande favorito per il prologo di domani è il britannico Bradley Wiggins del Team Sky. Grazie, allora da domani l'appuntamento anche su Radio 24 con il Giro d'Italia per Augusto Stagi. Grazie intanto, e noi ci fermiamo qui, le 13:26 minuti in questo istante. Pietro Lacorte in regia, ancora un saluto, una buona giornata da Anna Migliorati che ha curato e condotto questa edizione del giornale. La prossima come sempre alle 14, buona giornata. GR24, il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.